24. La storia. Un attore dallo stile tutto suo personale, non ha preso da nessuno. Vero attore della commedia dell'arte. La sua grandezza, la sua ironia, io non ho ancora capito se ci fa o c'è. Questa eleganza è qualcosa che nasce da una cognizione, quello della cultura. È veramente un artista. Fulminante. Una persona geniale. Fenomenale. Charlie Chaplin e Peter Sellers, Gene Wilder, Woody Allen, grandi attori, grandi star di Hollywood, e tutti in Italia hanno la voce di Oreste Vidonello. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la sua storia. Attore di teatro, di cinema, di televisione, di cabaret, per mezzo secolo un protagonista delle scene, ma anche un uomo ironico e sottile che osserva la realtà, ne mette in scena i vizi e le debolezze, tic e nevrosi. Ci ha accompagnato con la sua voce inconfondibile ma camaleontica e con il suo volto capace di trasformarsi in mille personaggi diversi, come racconta lui stesso. Woody Allen e io siamo contemporanei, siamo nati dopo la guerra, abbiamo avuto a disposizione degli argomenti nuovi, più liberi. Sono Renato Bibidaro di Destaccio. Io sono stato a 50 anni sotto ghiaccio. Il soggetto aveva 35 anni quando fu sottoposto all'ibernazione. Satta portà lo sbrinatore per rubarmi il cuore, per rubare il cuore a me. Mi cugino invece è un semifreddo. Attore, cabarettista, doppiatore, Lionello negli anni 60 dà la voce a Woody Allen, ed è proprio grazie a lui, secondo Pippo Baudo e Teo Teocoli, che l'attore americano diventa celebre in Italia. E se Woody Allen ha sfondato in Italia, lo dico senza piaggeria, si deve a Oreste Lionello. Io credo che lui abbia dato a Woody Allen, almeno nel nostro paese, gli abbia regalato un 20% in più del valore che Woody Allen in effetti ha. But you're too easy on yourself. Don't you see that? You know, that's your problem. That's your whole problem. You rationalize everything. Ma sei sincero con te stesso? Continui a dire che vuoi scrivere un libro, ma alla fine preferisci comprare la Porsche. Tu tradisci un tantino Emily, meni il camperlaia con me. The next thing you know, you're in front of a Senate committee and you're naming names. You're informing on your friends. Sei così farisaico, senti. Beh, ma noi siamo persone, solo esseri umani, sai. Tu ti credi Dio. E io a qualche modello dovrò pure ispirarmi. Dice, hai mangiato? Sì, sono stato a colazione, ho mangiato qualche volta, però no, una tristezza infinita. È peggio del parmigiano sulla matriciana, insomma, che c'era il pecorino. In ogni modo, se vogliamo una persona squisita che sa tacere ogni tanto, anche se per farlo si deve infilare in bocca un piffero, un flauto, non so che cosa, un clarinetto. Così Lionello descrive Woody Allen e racconta, intervistato da Marzullo nel 98, come ha iniziato a doppiare l'attore americano. Lei dà la voce a Woody Allen e poi a chi, Lionello? Ma guardi, sai, io sono come le vecchie donne da marciapiede, insomma si può dire che ho già dato, ho già dato. A tanti? Pressoché tutti. Ma sì, perché io sono nato nel dopoguerra come doppiatore, quindi c'era il cambio generazionale, c'erano le nuove voci, a me davano, siccome non capivano la comicità nuova, e tutti quelli nuovi li davano a me perché non capivano nemmeno me. E dice, questo qua, ma Woody Allen, che vuole questo? Ma diamoglielo a lui. Sono atleta, de ritorno dal Messico. Ai ai ai, come sono faticato. Quando sono partito era alto 1,90, ma che sono tornato sono 1,64. Mi sono rincarcato a furia di cercare l'ossigeno. Oreste Lionello nasce in Grecia, vive in giro per l'Italia, come lui stesso racconta in un'intervista a Gigi Mazzullo. L'infanzia dove l'ha trascorsa? L'infanzia, L'infanzia l'ho trascorsa raccogliendo un pallone che mi sfuggiva da tutte le parti, da Padova, Reggio Calabria, Torino, Verona, Valdobbiadene. E perché in giro? Perché mio padre si spostava continuamente, era militare. E lavora a Roma, dove incontra gli amici Pippo Baudo e Torino Guerra, che lo ricordano così. Tra le prime persone che ho conosciuto appena arrivato a Roma, questa mia avventura televisiva di spettacolo, c'è stato Oreste Lionello. Ci siamo conosciuti quando la povertà, la mia povertà a Roma, stava dentro un appartamento di due camere. Lio, perché così affettuosamente si chiama per noi, Lio abitava di fronte a Via Siago, un appartamento abbastanza grande, era un rifugio di noi piccoli attori, aspiranti attori. Non era che Lionello potesse vantarsi di successi strepitosi anche lui in quel momento. Comunque i nostri incontri, le nostre parole erano il nutrimento più bello di quei giorni. E mi ha voluto subito bene, mi ha insegnato tante cose, perché Oreste Lionello è nato eccezionale, c'è la misura, i tempi, quelli che molti dicono, ah ma questi qui sono i tempi di Woody Allen, è lui che l'ha insegnato a Woody Allen. Caro Toro, non ci piace questo scambelo? Ci fa vedere un scampoletto di stoppa per quello piccolo? Allora Toro dice, ci picchia, questo non mi pare una bella offerta, a fine stagione, la quedazione, vediamo un momento, vuole vedere dietro la stoffa. Toro non ci fa vedere solo davanti, lo Toro invece furbo, vuole vedere pure di dietro, perché con la stoffa si pigliano certe fregature se non le guarda bene sia davanti che da dietro. Lui è nato in Grecia, ma poi si ritiene calabrese, si ritiene esattamente di Reggio Calabria. Ho molta simpatia per il meridione. Per il settentrione no, perché sono tutti meridionali, ma dico... Quella che stiamo raccontando oggi a Mix24 è la storia di un grande artista italiano, Oreste Lionello. Mix24, la storia. Bentornati a Mix24, oggi raccontiamo la storia di un artista camaleontico, cabarettista, attore, doppiatore, un grande artista italiano, Oreste Lionello. Nato in Grecia ma vissuto in Italia meridionale, Lionello dà vita a un dialetto unico e originale, come raccontano il regista Pierfrancesco Pingitore e l'attore Dario Fo. Non c'era neanche un dialetto suo, allora se ne è inventato uno, una specie di meridionalese, molto divertente, molto comico. Dove hai preso questo tuo dialetto così divertente? Ah, il dialetto... Da dove l'hai tirato fuori? Dunque, siccome io non gioco, come dire, una lingua nel dietro della terra, essendo... Nel dietro della terra? Ecco già, perché c'è anche una costruzione grammaticale dentro, strana. La costruzione grammaticale perché ti sconvolge le parole e ci va anche nell'indomo. Ma sai che ogni parola c'è il significante, il significato, sì. Come diceva anche Freud. Perché è importante come tu usi il dialetto? Perché lo reinventi, perché non è becero, non è piatto, ma è fatto di onomatopeiche straordinarie. E qui noi ci assomigliamo. Mi permetto di dire che in certe cose ti assomiglio. Bravo. Dopo l'esordio in teatro, Oreste Lionello approda alla neonata Rai nel 1954 e successivamente anche sul grande schermo. Arrivavano sempre all'alba, morti di sonno e di paura. Così è annunciata la parodia del western all'italiana interpretato da Paolo Villaggio, Nino Toffolo, Oreste Lionello ed Enrico Montesano. I quattro personaggi che hanno acquisito una larga popolarità prima con il cabaret e poi con divertenti sketch televisivi tentano ora la fortuna con la platea cinematografica, come raccontano Bud Spencer e lo stesso Lionello. A cavallo, a cavallo, a cavallo. Immagino i problemi di Oreste quando gli hanno detto dove andare a cavallo. Lei sa andare a cavallo? Invece era la prima volta che ci montavo sopra. E il film che abbiamo fatto è stato Il soldato di Ventura. Il soldato di Ventura, non ricordo, Bud Spencer, graziosissima persona. Ma eravamo tutti dei cialtroni, era un gruppo di cialtroni che dava battaglia ai grandi cavalieri francesi. Imbracato per 12 ore dentro questa armatura, io soffro di claustrofobia, ma la sete di danaro era troppo alta. E così mi facevo scendere... Sempre al fianco di Bud Spencer, Oreste Lionello recita diretto da Dario Argento nel suo film Quattro mosche di velluto grigio. Il regista e i due attori raccontano così l'esperienza. Ho conosciuto Oreste durante alcune sedute di doppiaggio. Così, quando feci un film che era Quattro mosche di velluto grigio, dove c'erano due personaggi di due vagabondi molto difformi l'uno dall'altro, perché uno era era appunto Oreste, l'altro era Bud Spencer, uno gigantesco e uno più piccino. Questo ruolo che lui mi ha dato, che era Diomede, detto Dio, è un personaggio importante nel film. Ci sono stato anch'io, però per quello che riguardava la posetta mia. Ed erano due vagabondi che vivevano sul bordo del Tevere. Quando si dice che gli attori danno qualcosa ai registi, al film, in effetti lui mi ha dato moltissimo, ha inventato un sacco di gag, di idee, di tic sul personaggio che l'hanno reso naturalmente molto vivace e bello. Permette che mi ci faccia Enderez, così prego. Grazie. Non vado al cinema a vedere il film dell'orrore perché mi fanno paura. Poi non chiudo occhio per molte notti. Capisco benissimo che Oreste abbia paura dei miei film, molte persone hanno paura dei miei film, però poi bisogna superarle queste paure, visto che non siamo più ragazzi, quindi bisogna superarle e poi i film vederli, apprezzarli per quello che sono. Quelli di Dario Argento erano straordinari perché ti fanno vedere solo quello che fa paura, senza un ragionamento ben preciso. A un certo momento ti arriva uno che ti sgozza, ma perché? Niente, perché ti dà l'emozione dell'orrore anche del terrore. Come doppiatore, Lionello presta la voce a Charlie Chaplin nel ridoppiaggio del 1972 del film Il Grande Dittatore. Gene Wilder in Frankenstein Junior di Mel Brooks, Peter Sellers ne Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick e Dick Van Dyke in Mary Poppins che, come Lionello stesso racconta, rimane nell'immaginario di molti bambini con le sue canzoni. Milioni di bambini se la portano appresso questa canzone. Io no, perché ho la fortuna di dimenticarle. Chi un bacio mi dà, felice sarà. Tu penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al mio passo. La canzone non è come la vedi qua, la canzone la fai dentro una sala più grande di questa e c'è un maestro che ti mette sempre il dito davanti per farti capire che devi andare in sin. Batte il cuore in petto anche ad un insetto, dell'amor l'effetto nelle vene provo. L'amor che ho sento, me decido amato, quale godimento, nelle gioie trovo. Giacomo Casanova, interpretato da Donald Sutherland, avrà nell'edizione italiana del film la voce di Gigi Proietti. Durante il doppiaggio, Fellini inventa spesso, precisa, arricchisce o addirittura corregge il carattere dei personaggi. Per la scelta delle voci si fanno abitualmente molti provini, ma alla fine Fellini decide quasi sempre di avvalersi, magari anche per più personaggi, di quei pochi che hanno doppiato tutti i suoi film. In questo Casanova, Livia Giampalmo, Elsa Vazzoler, Oreste Lionello, Solveig D'Assunta sono gli attori che hanno collezionato il maggior numero di ruoli. Nel 1979 Oreste Lionello lavora con il grande regista Federico Fellini per Casanova e La Prova d'Orchestra. Questo è il ricordo di Lionello e di Tonino Guerra. Che individuo Fellini. Vedete, adesso se ne va, è così. No, era come uno zeffirello, un colpo di vento. Scompigliava i capelli e poi andava chissà dove. Un tipo inafferrabile, ecco. Come avevi fatto nel provino dell'altro giorno? Esiste un antico. Fammela trovare però prima. Sì, perché allora, esiste una. Esiste un antico epigramma che dice: cos'è più leggero di una piuma? La cenere. Più leggero della polvere il vento, più leggero del vento la donna. E più leggero della donna? Niente. La Prova d'Orchestra è uno dei grandi film di Fellini. c'è una carica poetica stupenda, è il discorso pronunciato da Lionello, del direttore d'orchestra, per me ha un'anima grande. Quando io dirigo ogni volta mi sento ridicolo. Come morto, mi sento un fantasma. No, non vorrei dire queste cose. Cancellare, prego, questo assolutamente. La voce di Lionello in prova d'orchestra è molto indovinata, è giusta, è forte. Oggi niente si perdona, tu devi sempre essere un ottimista. Sei sempre intelligente. Allora, noi diciamo così, la musica è il mondo. Io mi sento, quando dirigo, il padrone di mondo. Io mi sento come un re. Il suo modo di parlare era sopra le righe, era essendo su un aeroplano. Ma no, vuole lei sapere veramente come mi sento? Io mi sento come uno sergente mestierante che sempre deve dare a tutti un calcio in sedere. Sì, ma adesso, per stupidi e assurde leggi, è proibito far sergente. C'era molta armonia tra noi, che era come se un mio discorso sereno fosse pizzicato da qualcosa. Ecco, questo pizzicare era proprio il modo giusto e poetico che aveva Lionello di inserirsi nelle mie confidenze, nei miei momenti. Forse è bene ricordare che il rumore non è musica. Non è tram in curva, io ho sentito suoni di patelle e fischi. Dove siamo noi qua? Sopra di uno campo di calcio? Credete che io sono forse arbitro? Lionello non solo ha doppiato la voce del direttore d'orchestra, ma è servito per tante altre voci di orchestrali, perché c'era questo groviglio di persone e di idee di pensieri, ecco, che si scontravano, si riunivano, si riappacificavano, e Lionello serviva, perché naturalmente la sua voce non è una voce normale, è anche uno strumento che lui sa usare divinamente. Da capo! Buongiorno a tutto quanto il mondo. Da capo! Il violino è vibrante, modernissimo. Da capo! Il suono è un fatto soggettivo, un fa diesis, per esempio, un si bemolle, suonati da un qualunque strumento. C'è chi sviene di tenerezza, no? Seguitate, seguitate così! Avanti! Così! Mix 24, la storia. Poi sono stato educato a esercitare le mie qualità nell'ambito di un agone specifico, che era quello della, e nel nome, Compagnia del Teatro Comico Musicale di Radio Roma, 1954, e lì cantavano tutti, ma c'erano dei Antonella Steni, Isabellini, Isa Di Marzio, ma tutti cantavano, delle bestie di voci, ricordo. Allora uno bastava andargli appresso e cantavi pure tu. Bentornati a Mix 24, avete sentito Oreste Lionello, oggi raccontiamo la sua storia. Cabarettista, doppiatore, attore, lavora in radio con Pippo Baudo, che ricorda così quel periodo. Mi ricordo una cosa bellissima, perché abbiamo fatto un programma in radio insieme e siamo stati in aereo. Ora io con l'aereo non ci abbia molta dimestichezza, insomma non lo amo per niente. Eravamo a Rieti e facevamo una trasmissione radiofonica per descrivere un po' quello che c'era sotto, Rieti, le bellezze paesaggistiche. Lui era dietro con il nagra, c'era lo strumento dove c'era il nastro per registrare. Io parlavo, certamente mi sono girato e ho visto che c'era Lio, che era avvolto dal nastro, dalla testa ai piedi come una mummia, e per la paura non mi aveva mai fermato, per cui siamo atterrati e non abbiamo registrato nemmeno una parola. Mi avete visto passare il giro d'Italia? Chi avete visto passare qua il Giro d'Italia? È che io al gruppo ho già dato troppo di stacco. Eso sì. Ma mica 20 chilometri, sa? Non era perché io stavo davanti e loro dietro. E che sono scemo? Sì, io il distacco, io me lo prendo. Mica ce lo do. Me lo prendo in coda, hai capito? E quelli sono ragazzi e lasciale correre. Che l'avete visto passarci in Italia? Era straordinario. Ogni tanto incontro qualcuno che a distanza di 40 anni mi dice: che l'hai visto passarci in Italia? Solo che non ha più 15 anni, ma c'è una 60. No, te vuoi dire, ad esempio, che io mi metto a fare la volata per vincere il gran premio della montagna. Oh, la montagna sta in salita, sa? È buona la pastiera e la crosta. Nel 1965, insieme a Pierfrancesco Pingitore, parte l'esperienza del Bagaglino, così descritta dallo stesso regista. Con Oreste abbiamo cominciato tutto. Abbiamo cominciato nel 1965 in una cantina della vecchia Roma, vicino via di Panico, vecchia via di Malavita, meravigliosa. Il Bagaglino era una cantina, diciamo, proprio un ricovero di fiaschi e bottiglie, però aveva un carattere unico, eccezionale. E una sala fatta a L, nell'angolo dell'L c'era questa pedana, il pubblico stava non a mezzo metro, stava a mezzo centimetro proprio. Ah, se non fossimo così impegnati. Ah, se non dovessimo partire per il Vietnam. Perché tu ci vai? No, bingo. Non avevamo nessuna esperienza. Incontrammo questo strano personaggio di Oreste Lionello, questo tipino, che sapeva fare tutto in realtà e che ci insegnò molte cose. Dal cabaret abbiamo fatto due salti, prima in un grande teatro storico, qual era appunto il Salone Margherita, un teatro di varieté, come si diceva un tempo, e il secondo balzo fu in televisione. In televisione il cabaret non c'era mai stato. Noi portammo questa ventata, diciamo, di freschezza. Tra gli anni 70 e 80, Oreste Lionello, insieme ai registi Antonello Falqui e Pierfrancesco Pingitore, rivoluziona il linguaggio televisivo. Arriva il cabaret e ce lo raccontano così. Era un cabaret che si basava su una specie di rievocazione dei fatti italiani. Ricominciava dal 25, dal primo fascismo, e si arrivava fino ad oggi. Questa, diciamo, è una legge fisica detta della camera taria, no? Che per non imbrogliarci questa qui la chiamiamo A. Ora, questa invece è una pompa che chiameremo B. Quindi, ma con questa che è invitata, non è che tu pigli la pompa, la inviti, dici per cortesia, te mette qua. No, l'hai invitata prima. Allora incominci che te pompi e te repompi, vedi? Come? Mi dicono di pompare più in fretta? Fino a quanto viene il momento? Guarda te che paura che mi devo prendere io. Fino a quando viene il momento? Fu una piccola rivoluzione, perché il linguaggio schietto, popolare, del immediato, sintetico del cabaret era assolutamente inedito per la televisione. Tenuto il posto fresco, non è? Ecco, io ho tenuto proprio il posto fresco. Grazie, caro commendatore. Noi il posto comunque ce lo procuriamo sempre. No, bella la vita. È una bella. Signori, dal 1983 all'85 Oreste Lionello conduce la trasmissione di gran successo Al Paradise su Rai 1, regia e direzione di Antonello Falqui e autore Michele Guardì, che ricordano così quel periodo. Oreste l'ho conosciuto, credo, da giovanissimo, perché insomma, l'ho conosciuto quando faceva il primo Bagaglino, poi abbiamo fatto molta roba insieme, allora lì siamo diventati proprio amicissimi. Signore e signori, dell'anno. È stato bellissimo il nostro primo incontro al Teatro delle Vittorie, non lo dimenticherò mai. Lui venne e si presentò con una bottiglia di Locino e mi disse: perché non bisogna corrompere l'autore? Io mi presento con questo, è il massimo che ti posso offrire. Paradise! Guarda come mi sento sbirichino! Un giorno lui mi vide raffreddato, disse: aspettate qua. Andò nel suo camerino, mi prese un cappotto con un pelliccione che neanche Anna Karenina e mi disse: questo è tuo. E mi regalò il suo cappotto che io portai per anni. Questo cappotto con la pelliccia addosso era per me come un abbraccio di un amico che mi aveva accolto a Roma, avendo io lasciato i miei amici al paese. Mi pare un sogno, un'illusione, sentirti a me vicino. La tua parola è una canzone che sorride al mio destino. C'era questo binomio Milva Lionello che era piuttosto strano, perché Lionello era una specie di pupazzetto del circo, Milva era una sua alterosa aplomb, Milva la conosciamo, che poi non è così nella realtà, ma sulla scena è così, è piuttosto importante, piuttosto sembrerebbe anche di una certa alterigia, invece poi non è così. E con Lionello però si sono trovati bene, appunto per questa immensa disparità che c'era forse fra loro. Senti Oreste, ma se tu dovessi presentarmi che parole useresti invece? Ah, io semplicemente direi Milva e scapperei. Abbiamo avuto degli ospiti importanti, fra cui appunto Jerry Lewis, che è stata un'impresa titanica, perché Jerry Lewis sembra molto simpatico, ma nel lavoro non è così simpatico, è uno molto puntuto. Poteva stare un giorno solo, sai, non è che pagassero molto. C'era, ha fatto 8 interventi che erano 10 minuti di trasmissione, cioè 1 ora e 20 di roba registrata in un pomeriggio. A parte questo, c'aveva un cane, stava sempre in mezzo ai piedi, un cane di cui lui non poteva fare a meno mai, non si sa perché, una specie di maniacalità del cane. E poi pretendeva che noi sapessimo già quello che faceva, che non era, quindi abbiamo dovuto provare come con gli altri, un po' meno degli altri. Molto gentile. Io volevo dire che lei è come, nella sua semplicità, è come quella lacrima della rugiada sopra le spine di una rosa. Vorrei dire che il suo contorsionismo è stato come un trampolino per tutti i comici nuovi che lei ha potuto lanciare. Direi che il poterla continuamente vedere attraverso i film che sono passati e la loro riproposizione e i film che adesso lei ci sta portando e la sua presenza e il suo calore è una cosa che ci rende molto, molto, molto vicini al suo animo, all'operosità con la quale lei in tutto il mondo va portando la sua parola d'amore, di passione, di comprensione. Grazie ancora signor Jerry per questo che lei ha voluto fare qui per noi e quello che noi speriamo di poter fare per lei, conservandole tutta la stima che noi abbiamo sempre sentito, prima per la sua opera di comico, ma soprattutto per la sua dimensione umana, perché lei come uomo, signor Jerry Lewis, è veramente forse più importante del comico, e certe volte il comico è più importante dell'uomo. Sono dei momenti molto interessanti, la cui sintesi opera soltanto in lei, perché sono poche le persone al mondo che possono avere insieme questo afflato tra la comunicazione agli altri e il vibrante modo di essere. Momento! Francesco, vieni qua. My interpreter. Ah, interpreter. Sì. Francesco. Yes. What did Oresti say? What did you say? Cosa hai detto? Cosa gli ho detto? Cosa gli ho detto? Gli ho detto grazie. Grazie. Thank you. That was all grazie. Yes. Prego. Mix 24, la storia. Su tutte le regioni tempo orrendo. Non uscire di casa che ti verrà un accidente. Sarai sommerso dalle acque, tramortito dalla grandine. morsicato dai topi. Domani, peggioramenti in vista, che si accentueranno dopodomani, giorno in cui le perturbazioni in corso avranno finalmente termine e comincerà il terremoto. Bentornati a Mix24. Oreste Lionello al bagaglino lavora con Leo Gullotta, Pippo Franco e Pamela Prati, che lo ricordano così. Siamo sempre divertiti, perché ovviamente, anche se ci capitano personaggi ora femminili, ora politici, ora della cronaca televisiva, naturalmente non siamo imitatori, ma ci divertiamo a cogliere come una vignetta lati assurdi, tic, e facendo questo spessissime volte non solo, ripeto, lavoriamo, ma ci divertiamo, giochiamo. Estemperiamo spesso con un sorriso certi momenti di nervosismo, no, nemmeno di tensione, ma insomma certi momenti di rigore, ecco. Amiamo poco il rigore, pur praticandolo. Io dovevo intervenire e parlare con lui. Allora, bene Pamela, ci vuoi spiegare perché stasera sei qui? E io, sì, bene, bene, bene, va bene così. Poi allora, questa gag continuava finché alla fine non dicevo nulla e scoppiava in una risata pazzesca, perché con Oreste bisogna soltanto che sorridere. Tirami. Sempre al bagaglino avviene un incontro importante, quello tra Oreste Lionello e Teo Teocoli, che racconta così il suo arrivo a Roma. Io fui chiamato, non mi ricordo da chi, però fui chiamato a Roma per lavorare al bagaglino. Avevo ovviamente un po' di angoscia, un'angoscina ce l'avevo. Uscii sul palcoscenico, il locale era pieno, e notai tra le quinte, alle prime battute, proprio nel primo monologo, che Oreste Lionello si ammazzava dalle risate, cosa che non coincideva molto con il teatro. Ti sacrificherò il fiore della mia verginità? Ma non è necessario. Però questa cosa, che lui proprio si divertisse dei miei monologhi, mi diede una carica che fece sì che, insomma, questa mia prima serata fosse positiva. Che fai qua? Che fai qua? Presento. Ma ti ricordi? Ti ricordi di me? Non ti ricordi di me? Ma adesso, in questo momento, guardate, qual è il mio nome? Vediamo se ti ricordi. Non ti ricordi. Devo dire la verità, che se poi sono rimasto così a lungo è dovuto anche a Oreste e alla sua famiglia. Oreste Lionello fa satira politica. Le sue non sono imitazioni, ma interpretazioni. Celebre quella di Giulio Andreotti nello spettacolo Cren Caramel di Pingitore, apprezzata dallo stesso politico. L'imitazione è qualche cosa di straordinario, perché se non soltanto da una certa quasi identità di aspetto fisico, ma dal modo di parlare, dallo stesso gesticolare, si dà per un momento quasi il dubbio che si tratti veramente della persona che si sta imitando, è propria soltanto di grandi personaggi, e Lionello certamente il top di questa classifica di persone che sapevano imitare. Onorevole Andreotti, prego, si accomodi. A volte è venuto anche qui a studio mio l'abbigliamento della mia imitazione, cioè fu un grandissimo divertimento un po' per tutti. La ringrazio per avermi aiutato a uscire da Woody Allen. Prima mi chiamavano a Woody, ora mi chiamano a Giulio. Se si mette le scarpe un po' più alte, la mando a sostituirmi in qualche caso. Così Andreotti parlava a se stesso, interpretato da Lionello, nell'edizione dell'88 di Biberon, che, come dichiara lo stesso senatore, era una trasmissione molto ambita. Essere presi in giro apparentemente dispiace, e qualche volta fingono di protestare. Quando c'era il Biberon, chi veniva coinvolto e naturalmente si sentiva molto inorgoglito, e chi ne rimaneva fuori pensava di essere ancora in una serie minore nel campionato politico. Ho la bocca grossa grossa, ma il cervello fino fino. Oreste Lionello muore all'età di 81 anni, colpito da un tumore. Fino all'ultimo recita nel bagaglino. Due grandi amici, Dario Fo e Pippo Baudo, dicono di lui: è difficile fare ironia, è difficile essere comici, soprattutto perché la tendenza è andare giù pesanti. e la tua leggerezza è esemplare. Ti dico, c'è crisi da tutto meno che degli attentatori. Che l'ha trovata? Uno pastrata che mi dice, per cortesia, che me lo fai lei questo attentato? Perché ci hanno tanto di quel lavoro che da soli non ci riescono. Ecco, vabbè. No in via de Bogea, in via del Forte de Bogea, che quelle nal... Oh, signore Benedetto, un momento, scusi. Aspetti un istante. Dunque, lei già presente? Qui facciamo, no, come conto? Questo? Lei ha presente Piazza Irnerio? Si è inventato da solo, ha inventato uno stile, una caratteristica, una voce. Anzi, facciamo una cosa, guarda. Tra 15 minuti l'attentato sarà al numero 1 di via del Forte de Bogea. Perché mi sa che al 396 non ci arrivo. Una maniera di dialogare col pubblico, di fare monologhi strampalati, ma con una linea però logica, filosofica, sempre molto alta. Questo è Oreste Lionelli. L'attentato avverrà in una macchina nei pressi di una cabina telefonica. Che mi dispiace pure tanto che la macchina è la mia. Ma d'altra parte me caperanno quelle lì. Laudato sia mio signore, per sto somaro, per tutte queste pecore. E per sto pecoraro, va. Amen. Laudato sia mio signore, per sto santo mondo. Io lo dico spesso, sono diventato come Totò. Scusate, non è immodestia, ma è per dire... che sono diventato cieco come lui, ecco, perché mi hanno fatto la cataratta, queste cosette qua. Quindi io sono come Totò, bravo, no, cieco. Boccaccia mia staticita! Alessia Lionello, attrice, doppiatrice, figlia dell'intramontabile talento Oreste Lionello. Com'era il rapporto con suo padre? Il rapporto con papà era un rapporto stracomico e divertente. A 6 anni mi disse... E io ero talmente eccitata, dovevo andare a una mostra e gli dissi papà vado a vedere il Caravaggio e lui mi disse bimba calmati, quando sei davanti a un suo quadro non gridare ah un Caravaggio presto prendetelo, insomma babbo questa è una battuta sciocca, ma avevo 6 anni, da lì fino ai 40 e passa mi ha sempre fatto ridere e ridere. Cosa le ha insegnato suo padre di più significativo nella carriera di artista? La grande capacità di capovolgere le cose. Un esempio, al Festival del Cinema di Venezia incontrò Gillo Pontecorvo e Walter Veltroni. Per non essere scortese li salutò insieme dicendo «Permettono un Gillo di Walter?» Ah, io una sorella Cristiana, sì. Anche lei doppiatrice. Cosa vi ha portato a scegliere questa carriera? Allora, tutti noi figli abbiamo scelto la sua carriera in qualche modo in rami differenti. Cristiana e Luca sono proprio il sacro fuoco della passione. Luca, grande attore di cinema, Cristiana, doppiatrice, Sharon Stone, tanto per dirne una, la voce, e adesso direttrice e presidente della società che aveva creato papà, la grande CVD. E che ci ha scelto? Era l'unico modo per vedere papà, quindi al doppiaggio, ma io sono la meno doppiatrice, adesso la più grande soddisfazione è quando mi dirige mia sorella e mi dice brava Alessiotta, è come se me lo dicesse papà, io gioco con le immagini per la Rai ed è molto bello insomma. Qual è stato secondo lei il momento più difficile della vita di suo padre? Ma è il momento più difficile quando il suo corpo ha deciso di abbandonarlo e ha imprigionato con sé una mente ancora giovane, benché avesse 81 anni. Quindi papà era un giovanotto quando è mancato e aveva tante cose ancora da dire e da fare. E mi ricordo proprio un'ultima battuta dopo un'operazione difficile, tutti i macchinari andarono in tilt, lui si era appena risvegliato dall'anestesia e l'infermiera disse maestro, sembra l'Odissea nello spazio e lui disse no. E l'Orestea nell'ospizio. Ecco, questa sua grande accettazione anche nei momenti difficili rendeva meno difficile il momento difficile. Ha anticipato la mia domanda, una dote di suo padre che pochi hanno riconosciuto. Ma guardi, non parlerei di doti non riconosciute proprio nel termine, ma direi di doti temute. Papà era uno spirito libero e imprevedibile e quindi diceva e faceva quello che voleva. Era un grande anticipatore dei tempi, viaggiava sempre 20 anni avanti su tutto. Questo è stato difficile da comprendere, penso. un difetto lo riesce a trovare a suo padre? Ma la compagna di papà e la mamma, che lo ha amato tanto, dice che papà non aveva difetti ma solo pregi, eccessi di virtù. In realtà ne aveva anche lui, come tutti. Si arrabbiava spesso, questo spirito libero non sempre gli ha portato quello che ha voluto, ma insomma ha fatto la sua vita come ha voluto lui. Vi posso salutare con un salutino? Certo. Ecco, papà vi avrebbe detto adesso, proprio in questo momento difficile, un piccolo avvertimento. Camminate tutti muro muro come le capre quando piove. Intanto noi a Roma diciamo stiamo tranquilli, ci sono delle mura così spesse, ma ogni tanto c'è un archetto, è lì che ti chiappettano. Quindi attenti, attenti alle fregature, perché in questo momento ce ne sono tante. Intanto ringrazio voi tutti per questo splendido ricordo. A noi figli piace pensare che papà non sia morto ma sia uscito di scena per cambiarsi d'abito, e con voi oggi c'è rientrato. Grazie. Grazie mille. Tutte le puntate di Mix 24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.